Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, oggi iniziamo la giornata e la settimana con una splendida coppia di ospiti, una coppia che sembra fatta apposta per lavorare insieme. Uno fa ricerca, l'altra racconta la scienza, uno va a caccia di virus e l'altra di spiegazioni. Uno è una giornalista scientifica, autrice di bestseller, l'altro è uno dei più apprezzati virologi a livello internazionale. Bene, i due hanno scritto un libro insieme, si intitola La rivolta della natura. Vi ho dato indizi a sufficienza? Beh, immagino di sì. E quindi posso dare il benvenuto a Eliana Liotta. Ciao Nicoletta, ben trovata e grazie. E al professor Massimo Clementi, professore di microbiologia e virologia all'Università Vita Salute San Raffaele, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia all'ospedale San Raffaele, che è stato tante volte ospite delle nostre trasmissioni. Buongiorno professore. Buongiorno e grazie. Allora, chi la fa l'aspetti e il conto è arrivato. Nel libro, Eliana, voi associate la pandemia e la minaccia di future epidemie all'impatto dell'uomo sull'ambiente. Partiamo da qui. Allora, diciamo intanto che noi attraversiamo un'era geologica che è detta antropocene, dal greco antropos, uomo. Siamo noi in questo momento, con le nostre attività, con il nostro modo di vivere, a rimodellare il pianeta. Sembra che io lo stia prendendo da lontano, ma non è così, perché che cosa succede? Per il nostro benessere, per il nostro presunto benessere, incendiamo foreste, impoveriamo il suolo, annichiliamo interi ecosistemi. Quindi poi non c'è da meravigliarsi se a un certo punto la natura torni a rubare la scena, quantomeno ci ricordi che la nostra salute è collegata, ma tantissimo, con la salute del pianeta. Ogni anno noi perdiamo un'area grande quanto il Belgio di foreste primarie e noi distruggiamo per lasciare spazio, che cosa? Agli allevamenti intensivi, alle coltivazioni di soia da dare da mangiare agli animali che poi a nostra volta mangiamo. Cosa succede però? Questo è un grave danno, sia perché le foreste incendiate producono emissioni di gas serra e quindi contribuiscono al riscaldamento globale, e poi perché perturbare gli habitat degli animali significa lasciargli senza casa, lasciarli senza cibo. Allora gli animali selvatici si avvicinano ai centri urbani ed è quindi come spingerli a passare a noi i loro virus. Ecco perché certo, i cambiamenti climatici, la deforestazione, le attività umane sono strettamente collegati alla possibile diffusione di nuove epidemie. Ma anche, professor Clementi, il riscaldamento globale è associato a una maggiore diffusione di epidemie. Ci fa qualche esempio? Sì, certamente, perché già nel 2012 ci fu uno studio su Science che evidenziava come negli ultimi anni si fosse assistito alla trasmissione di malattie tropicali in paesi dove prima non erano presenti e anche in Europa. La febbre del chikungunya è apparsa in Italia nel 2007, la dengue in Francia e Croazia, e oggi si stima che siano 1600 gli ammalati di encefalite di West Nile in vari stati europei, incluse Italia e Francia. Si stima poi che una delle conseguenze dei cambiamenti climatici sia il proliferare e anche il colonizzare in zone dove prima non erano presenti di zanzare. Queste sono vettori, come è noto, di tante possibili infezioni. Già oggi le zanzare si riproducono a ritmi impressionanti e ce ne sono anche di strane e temibili, perché trasportano virus, protozoi, tra cui quelli della malaria. Professor Clementi, però le zanzare non trasmettono il Covid-19? No, certamente no. Ecco, no, perché sta parlando di zanzare, adesso iniziano a pizzicarci e il rimando viene immediato. Eliana, nel libro scrivete che nelle aree inquinate i microorganismi trovano autostrade per insediarsi e moltiplicarsi. L'immagine è molto efficace. Guarda, fin dalle prime settimane di Covid-19 ci si è chiesti chiesti se gli scienziati si sono chiesti se l'inquinamento avesse pesato sulla diffusione del virus. Allora, quello che si sa è che nelle aree inquinate, come sono purtroppo le città lombarde duramente colpite e come è la Cina, insomma, nelle aree inquinate le persone hanno maggiori sofferenze respiratorie, perché il particolato, le polveri sottili disturbano i nostri polmoni, quindi diciamo che il virus trova una strada per insediarsi più semplice, più agevole, mentre invece non possiamo dire che il virus sia andato in giro come in una specie di taxi nell'aerosol, nelle zone inquinate. Questo si è detto, ma in realtà è una teoria che non ha basi fondate. Detto ciò, l'inquinamento e i cambiamenti climatici sono ritenute le minacce più allarmanti per la salute umana dalla comunità scientifica internazionale. Nel libro affrontate il tema vaccini per il coronavirus. Nell'attesa, che cosa consiglia per non farsi trovare impreparati nel caso Covid e l'infezione tornasse, la famosa seconda ondata? La ricerca che si sta facendo sul vaccino è molto importante, perché ci porterà ad avere un prodotto preventivo che potrà essere utilizzato sia in questa epidemia, sia qualora dovesse anche cambiare, ripresentarsi un diverso coronavirus. Non dimentichiamo mai che noi abbiamo avuto altre due epidemie di coronavirus negli ultimi 16 anni e che quindi questi virus rappresentano una continua minaccia per l'uomo. Quindi è importantissimo che si sviluppi un vaccino e che possa essere utilizzato per combattere quello che resterà di questa pandemia e che poi rappresenti anche la base di una nostra arma nei confronti di eventuali altre diffusioni sempre di questi coronavirus. Professore, non si possono fare previsioni al momento, ma attualmente la carica virale sembra diminuita, ma in questi ultimi giorni il virus sembra alzare la testa, come testimoniano alcuni focolai. Ci sono stati focolai di infezione per lo più asintomatica, sono quasi tutti asintomatici, a bassa carica, tant'è che adesso finalmente, dopo che c'è stato un tentativo di porre questo aspetto all'ordine del giorno, sembra che saranno segnalati in futuro i positivi ad alta carica e quelli a bassa carica, perché è una distinzione importantissima per il controllo di questa infezione. La bassa carica è molto spesso associata a una condizione di asintomatico o poco sintomatico. Eliana, ma altri virus potrebbero arrivare, virus aggressivi, cattivi, che a causa dello scioglimento delle calotte polari potrebbero tornare tra noi. Sembra in realtà un film di fantascienza, Eliana, purtroppo c'è una possibilità concreta. Nel libro ne parlate. Anche per me è stato incredibile leggere questi studi scientifici, però la realtà è che alcune equip di scienziati, per esempio francesi, hanno trovato nel permafrost, quindi nel ghiaccio della Siberia, dei virus congelati nelle carote di ghiaccio. Li hanno portati in laboratorio, li hanno scongelati e questi, che erano virus di 30.000 anni fa, si sono dimostrati vitali, capaci di infettare delle cellule. Allora qual è il timore adesso? Il timore è che l'industrializzazione si spinga fin lì per riuscire a ricavare da quei territori altri combustibili fossili, ma noi proviamo a immaginare se un operaio va lì con la trivella e viene a contatto con virus giganteschi, proprio virus giganti si chiamano così, che sono coevi dell'uomo della pietra. Bisogna stare molto attenti. Tra l'altro è collegato al riscaldamento globale anche lo scioglimento dei ghiacciai, lo scioglimento progressivo con un aumento di 2 gradi, che sembra niente mai tantissimo, si prevede che i ghiacciai artici siano sciolti in estate, che di conseguenza il livello del mare si alzi di almeno 0,5 metri. Eliana, siamo in chiusura, ma possiamo, anzi dobbiamo, vogliamo fare pace con la natura. Da che cosa si comincia? Dal nostro cervello. È l'antropocene, noi siamo Homo sapiens, e allora puntiamo sulla ricerca, sull'igiene, sull'innovazione, sull'alimentazione sostenibile, sull'energia pulita, e combattiamo anche la diseguaglianza sociale, perché la povertà, la fame, la mancanza di istruzione sono alleati delle epidemie, ma io ho fiducia nell'uomo, nelle nostre capacità straordinarie. La rivolta della natura di Eliana Liotta, che ringrazio per essere stata con noi, e di Massimo Clementi, grazie professore, grazie ad entrambe, grazie ad Anita Panizza che è in assistenza, a Laura Vanossi in redazione, a Peter Bescape in regia alla parte tecnica. Come sempre, dopo il GR delle 12 ci sentiamo per gli aggiornamenti che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata.